Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette e 9 minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria: non l'ha presa bene il mercato, mi riferisco chiaramente alla notizia che Mosca, per voce dello stesso presidente russo Vladimir Putin, che è in Turchia, che nel corso di una conferenza stampa con il presidente turco Erdogan ha annunciato che rinuncia al super gasdotto South Stream, almeno vi rinuncia per il momento. È una conseguenza importante perché, come poi chiariremo, al gasdotto partecipava anche e soprattutto l'Italia, con l'ENI, che aveva il 20% della società, e con la Saipem, che doveva realizzare la posatura dei tubi, per essere abbastanza così generici. Il South Stream doveva portare il gas russo in Europa girando l'Ucraina, passava sotto il Mar Nero e poi la Bulgaria, Serbia, Ungheria, Austria. Il costo di realizzazione si aggirava, uso il passato perché per ora è sospeso, sui 50 miliardi di dollari. Come dicevo, Eni aveva il 20% di questa società, del consorzio che doveva realizzarlo, il 50% ce l'aveva Gazprom, poi i francesi di EDF il 15% e poi la Wintershall il 15%. Saipem ha vinto un appalto per 2 miliardi di dollari e aveva già iniziato i primi lavori per la tratta sottomarina. Ora, da quello che però noi abbiamo capito e sappiamo, ci sono tutto un insieme di clausole che tutelano Saipem in caso di rottura o sospensione del contratto. La borsa però reagisce, come dicevo, molto male. Il titolo all'inizio ha avuto difficoltà a fare prezzo, adesso è il peggiore del listino, perde sostanzialmente il 9,70%. E devo dire è il peggiore in assoluto di tutta la borsa, oltre che dei titoli di maggiore capitalizzazione. Poi c'è Ferragamo che perde il 4,20, Tod's il 2,70, World Duty Free il 2,60, Jux meno 1,30, Moncler meno 0,80. Non è bella la giornata oggi per i titoli del settore lusso, male anche A2A meno 2,10%. Chiederete come va Eni? Beh, in realtà c'è chi fa un ragionamento un po' cinico, se volete, ma non così sbagliato, che a Eni viene levata una patata bollente, nel senso che i costi e gli oneri di questo gasdotto sono alti. L'Eni aveva già manifestato nel passato, non dico uno scetticismo forte, ma insomma più di un dubbio. Putin con questa decisione ha levato le castagne dal fuoco e infatti l'Eni guadagna oggi l'1,60%. Bene anche CNH Industrial più 3,90, Popolare Emilia Romagna più 2,90, Prismian più 2,80, Fiat più 2,30, Ubibanca più 1,90 e Finmeccanica pure l'1,5 lo guadagna la Popolare di Milano. È chiaro che la decisione di Mosca è una decisione di carattere politico, tant'è che Putin l'ha giustificata dicendo la posizione dell'Unione Europea sul gasdotto non è costruttiva, c'erano molti dubbi fatti sul gasdotto, e la Russia potrebbe decidere di riorientare le forniture di gas. Tra l'altro, come citavo, oltre che una decisione politica, da uno scontro che è in corso tra Russia e Unione Europea sulle sanzioni e anche Stati Uniti, ci sono i costi. I costi avevano un senso quando il petrolio era molto alto, ma adesso siamo a un prezzo del petrolio che rispetto al picco di giugno è sotto di un 40%. La domanda europea di gas è in calo del 10% rispetto al 2010 e i ricavi di Gazprom sono nettamente diminuiti, anche perché il rublo è sempre più debole ed è continua a essere a record negativo nei confronti dell'euro, 65 rubli per un euro, e del dollaro, 54 rubli per un dollaro. Di questo ci occuperemo nella seconda ora del programma. In apertura invece il tema dell'acciaio italiano, in questo caso, perché oggi il premier Matteo Renzi, come ricordava il nostro GR24, è in Algeria e ha citato il gruppo algerino che, come già abbiamo annunciato, si chiama Sevital, è un gruppo che produce di tutto, dall'alimentare alla distribuzione dell'industria della siderurgia. È il principale soggetto privato in Algeria e ha oltre 10.000 dipendenti. Perché ci occupammo di Cevital? Perché le acciaierie di Piombino andranno agli algerini. Di questo ha anche parlato Renzi nel giorno in cui poi c'è stato il via libera del Ministero dello Sviluppo Economico alla cessione della Lucchini di Piombino appunto al gruppo algerino Cevital. L'operazione avverrà a fronte di investimenti di circa 400 milioni di euro e prospettive a regime di un pieno riutilizzo del personale. Fin da subito infatti Cevital assumerà alle proprie dipendenze 1860 lavoratori. Di questo parleremo, perché nel frattempo c'è anche il fronte Ilva aperto, c'è il fronte AST e quindi Terni, e la Lucchini mi sembra di poter dire che è l'unico fronte che forse si è, non dico definitivamente, ma perlomeno chiuso. Per quello che riguarda la borsa, complessivamente l'indice guadagna lo 0,60%, Parigi più 0,20%, Francoforte meno 0,30%, Londra più 1,25%. E poi parleremo di evasione fiscale. Perché? Perché oggi la Corte dei Conti ha pubblicato la relazione sull'indagine sugli effetti dell'azione di controllo fiscale in termini di stabilizzazione della maggior tax compliance. Che cosa vuol dire? Sostanzialmente la Corte dei Conti ha detto che le leggi italiane in materia di fisco, la normativa fiscale che si è sviluppata negli ultimi 40 anni è stata spesso contraddittoria e mal coordinata, adottata sulla spinta di emergenze contingenti mai inquadrate in una strategia di lungo periodo di contrasto all'evasione fiscale. E questo, dice la Corte dei Conti, è colpa soprattutto della politica, cioè gli andamenti contraddittori, che vuol dire che un anno si faceva il redditometro, poi facevi il condono. Traduco in maniera un po' semplicistica, denotano l'esistenza di storiche divisioni politiche e sociali su un tema, quella del contrasto all'evasione, che per sua natura e rilevanza dovrebbe costituire un elemento di piena condivisione e concordanza degli obiettivi. Cioè, anche qui traduco, la politica non dovrebbe dovrebbe fare della lotta all'evasione o della minor lotta all'evasione un tema di agenda politica. In un paese civile tutti i partiti sarebbero per la lotta all'evasione, ma tutti i partiti sarebbero anche, aggiungo io, per un fisco più semplice, più equo e meno vessatorio in alcuni casi. Ancora, dice la Corte dei Conti, lo scenario è desolante, la correttezza fiscale sembra affidata più alla lealtà del sindaco, troppi condoni rendono sostanzialmente depotenziano l'intero sistema e rendono autolesionistica la condotta di chi è onesto. Come dire, se continuate a fare condoni, il messaggio che arriva è che è sto sciocco chi è rimasto onesto. E poi nota la Corte dei Conti una grave sperequazione lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi, e cioè sostanzialmente si è discostato dal modello teorico il nostro funzionamento del sistema fiscale, per cui c'è una sperequazione tra il livello di contribuzione, tra chi paga le tasse, tra lavoratori dipendenti e i lavoratori autonomi. Mi sembra questa un po' la scoperta dell'acqua calda. E dice la Corte dei Conti, basta guardare riguardo all'IRPEF, dove le ritenute effettuate dai sostituti di imposta sui redditi da lavoro dipendente e dalle pensioni costituiscono nel 2013 l'80% del gettito totale, per cui l'80% del gettito totale derivante da adempimento spontaneo, quindi dichiarazione IRPEF, arriva da chi ha la busta paga o chi ha la pensione. E anche qui la Corte dei Conti dice una cosa vera ma arcinota. 349-238-6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia su Facebook, le altre notizie in breve. Allora, di Russia e rublo parleremo più avanti, di gasdotto, di South Stream. Faccio notare che oggi dalla Russia arriva un'altra brutta notizia, cioè tagliate tutte le stime sul PIL russo nel 2015 da un più 1,2% a un meno 0,8%. Ora, questo programma non si occupa di economia internazionale, certo che la valutazione che si può fare in maniera molto neutra è che a Putin le ritorsioni nei confronti dell'Europa e degli Stati Uniti rischiano di essere una vittoria di Pirro, cioè gli stanno costando parecchio care, il rublo ai minimi storici, l'economia che è ferma, l'anno prossimo che invece di crescere va in recessione. Chiaro che poi Putin queste misure le ha prese per motivi di politica estera e quindi anche per tutto quello che riguarda la parte, diciamo, più filorussa dell'Ucraina, però faccio notare che l'effetto forse è stato anche peggiore di quanto lo stesso Putin potesse immaginare, anche perché nel frattempo la Russia l'anno prossimo andrà in recessione, ma intanto ha un'inflazione che vola, quindi la peggiore delle ipotesi delle situazioni possibili, vola al 9% nel 2014, calerà al 7,5% nel 2015. Veniamo all'Europa. Il commissario agli affari economico-monetari Pierre Moscovici, Moscovici, come dicono quelli che hanno studiato, che dovrebbe essere diciamo, quello più vicino alle posizioni di maggiore flessibilità, di minor solo austerità e rigore, oggi ha un po' gelato le speranze, perché ha detto: attenzione, a gennaio l'Europa dirà solo quale tipo di flessibilità si può utilizzare, chi è quale tipo è autorizzato dalle regole, non aggiungeremo nuova flessibilità e personalmente non sono favorevole a una interpretazione creativa della flessibilità di bilancio. Je ne suis pas partisan d'une flexibilité à outrance, je l'ai dit ici, je l'ai redit, je ne veux pas qu'il y ait. Non sono fautore della flessibilità a oltranza, l'ho detto e ridetto più volte. Noi applichiamo le regole, quando parliamo di flessibilità non parliamo di nuova flessibilità. Intendiamo invece un nuovo documento che dovrà dire precisamente quale tipo di flessibilità è autorizzato dalle regole e il modo in cui può essere usato. Niente di più, niente di meno. Ho anche già detto che non sono favorevole a un'interpretazione creativa delle regole. Non sono favorevole a una distruzione del patto. Penso che il patto debba essere applicato. Il ruolo della Commissione è appunto questo. Doit être appliqué le rôle de la Commission, et bien celui-ci. E poi attenzione, perché sempre il commissario europeo dice: attenzione, l'Italia, lo sforzo dell'Italia è al di sotto degli obiettivi. Ammettiamo che le richieste sono impegnative, per cui abbiamo deciso di rinviare il giudizio finale sull'Italia a marzo e il nostro approccio è un approccio politico, come abbiamo spiegato venerdì, che prende in considerazione queste difficoltà, però il giudizio resta uno sforzo al di sotto degli obiettivi per quanto riguarda la riduzione del debito. In our opinion, the DBP of Italy... Secondo la nostra opinione, la situazione del debito dell'Italia rischia di non essere conforme con le richieste del patto di stabilità e crescita. Siamo consapevoli delle difficoltà che sta affrontando l'Italia, del fatto che il paese è in recessione da diversi anni e consideriamo tutti questi elementi quando discutiamo della situazione italiana. Lo sforzo dell'Italia sul debito è al di sotto degli obiettivi della fase di transizione per rispettare la regola del debito. Ammettiamo che le richieste sono molto impegnative in questa fase e per questo abbiamo deciso di rinviare la valutazione a marzo 2015. Sono consapevole che ci sono difficoltà, ma l'approccio della Commissione è quello di tenere conto di queste difficoltà. Allora, altre notizie in breve, alcune già raccontate nei nostri GR24. La Corte dell'Unione Europea ha condannato l'Italia a pagare una multa da 40 milioni di euro per il ritardo sulle discariche, però il ministro ha detto no, non pagheremo un euro, comunque la sentenza è ormai retroattiva, però attenzione perché l'Italia non si è ancora adeguata alla direttiva rifiuti sulle discariche e la Corte dell'Unione Europea ci ha inflitto una sanzione di 40 milioni di euro e una penalità di 42 milioni di euro per ogni semestre di ritardo. Questo come adeguamento alla sentenza del 2007. Poi una notizia invece non buona che riguarda la trattativa tra Ideal Standard e Ideal Scala. La trattativa si è interrotta in modo definitivo, a meno di colpi di scena. Sono in ballo 400 posti di lavoro dello stabilimento di Orcenigo, compresi tra l'altro anche altri indotti. L'azienda ha preso atto con rammarico della non volontà della cooperativa di proseguire nel percorso delineato dopo aver speso quasi 30 milioni di euro e aver impiegato molti mesi. Gli impegni prevedevano condizioni di favore degli asset per l'avvio della cooperativa e poi, invece, una volta presentato il piano industriale, commerciale e finanziario. (349) 238 6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia su Facebook. Adesso, prima di arrivare al tema dell'acciaio italiano, occupiamoci di un altro prodotto del nostro paese che però non è esportabile e di cui non vorremmo mai occuparci o non vorremmo più occuparci, e mi riferisco ai costi delle alte cariche della nostra pubblica amministrazione. Oggi parleremo anche della magistratura. Si può parlare della magistratura senza essere accusati di attaccare i magistrati? Non attacchiamo la giustizia, non attacchiamo nessuno, facciamo notare gli stipendi dei vertici della magistratura italiana, mettendoli a confronto, se è possibile, con i loro sostanzialmente omologhi, colleghi in Europa, perché io non potrei mai stabilire quanto deve guadagnare il Presidente della Corte Costituzionale. Posso solo guardare quello che guadagna l'omologo, cioè il Presidente della Corte Costituzionale in Germania o in Gran Bretagna. E poi anche altre notizie che, ahimè, riguardano sempre le regioni, ma con una buona notizia che riguarda la regione Lazio. La sposa in bianco, il maschio forte, i ministri puliti, i buffoni di corte, ladri di polli, super pensioni, drecche più, ladri di stato e stupratori, il grasso ventre dei commentatori, diete politicizzate, evasori legalizzati, drecche più, auto blu, sangue blu, cieli blu, amore blu, rock and blues. Allora, ripeto, noi non possiamo sapere quale sia lo stipendio corretto per le alte cariche della magistratura, possiamo solo fare dei raffronti europei. Perché lo dico? Perché al di là di quello che è successo con i manager delle società pubbliche, a patto, ricordo la legge, che non siano quotate in borsa, insomma, il presidente della Corte Costituzionale, che in questo momento è Alessandro Criscuolo, ha una retribuzione che obiettivamente è difficile da spiegare, perché, lo dico subito, guadagna 432.000 euro. Tra l'altro, fino al 30 aprile guadagnava 550.000 euro l'anno. Poi la Corte stessa ha deciso di tagliarsi gli emolumenti per un centinaio di migliaia di euro a soggetto. Anche perché gli altri 13 giudici della Corte Costituzionale hanno uno stipendio di 360.000 euro l'anno in busta paga. Ripeto, difficile detta così. Guardiamo cosa capita all'estero. Allora, il presidente della Corte Costituzionale tedesca prende 196.000 euro, meno della metà del nostro. Forse funzionerà peggio la Corte Costituzionale tedesca. Il presidente della Corte Suprema americana prende 190.000 euro. Io sapevo che la Corte Costituzionale americana è una corte importante, decide e ha potere sulle leggi dei singoli stati, cioè. Eppure prende meno della metà del nostro presidente della Corte Costituzionale e praticamente quasi la metà dei vari giudici che compongono la Consulta. Vado avanti con gli esempi, perché insomma ce ne sono anche altri. La Corte Costituzionale inglese costa ai sudditi della regina 13 milioni di euro l'anno. La nostra costa 41 milioni di euro l'anno, più 20 milioni di euro di pensioni ex giudici dipendenti. Ora, questa non è una critica alla Corte Costituzionale, è una domanda, a mio avviso legittima, sulle quelle che si chiamerebbero politiche distributive e remunerative. Anche perché ogni giudice della Corte Costituzionale dispone a testa di una foresteria e di un'auto blu che è assegnata fino a un anno dopo il pensionamento. Nella Corte tedesca le auto blu sono due, uno per il presidente e uno per il vice, gli altri si affidano a un'auto a turno. Sarà per questo che la Germania è un modello, in questo caso vedete che non ce l'ho con la Germania, e anzi la prenderei come esempio. E visto che oggi abbiamo voglia di parlare dei vertici, parliamo anche della Banca d'Italia, istituzione assolutamente da rispettare. Però faccio notare che la Banca d'Italia ha una sua autonomia organizzativa e finanziaria e appartiene al sistema europeo delle banche centrali, per cui il tema delle retribuzioni, l'ultima parola spetta a Francoforte, quindi alla Banca Centrale Europea. Però il governatore Ignazio Visco guadagna 450.000 euro e Salvatore Rossi, che è il direttore generale, ne prende 400.000. I tre vice direttori portano a casa 315.000 euro a testa. Faccio notare che Mario Draghi guadagna meno del governatore della Banca d'Italia e meno del direttore generale, 378.000 euro l'anno. Vabbè, rilassiamoci con la Regione Lombardia, la vecchia gestione, perché l'inchiesta sulle consulenze facili ha svelato, come era immaginabile, anche così un principio di parentopoli con incarichi a figlie, sorelle, fidanzate. Ci sono 10 indagati per falso e truffa. Dall'inchiesta emerge, cito testualmente, un ricorso massiccio a collaborazioni esterne. Dal 2008 al 2012 la Regione Lombardia è riuscita a stipulare, dal 2008 al 2012, 2.300 contratti di collaborazione. Cioè, come se non lavorasse nessuno lì dentro. Allora, Stefano Zambetti, 32 anni, figlio dell'ex assessore Domenico Zambetti dell'UDC, arrestato per compravendita di voti con 'Ndrangheta, ha ottenuto 3 incarichi dai consiglieri del PDL, Massimo Guarischi e Margherita Peroni, per ricerche e predisposizione di documentazione sulle tematiche della settima commissione. Vabbò. Poi c'è Luca Gaffuri, presidente del gruppo PD, che deve rispondere degli incarichi distribuiti all'intera famiglia Zecchetto. Voi direte, ma che c'entra la famiglia Zecchetto? Ettore Antonio, che ha 65 anni, ha avuto 5 contratti dal 2009 al 2012 con dei versamenti mensili tra i 2.000 e i 4.500 euro. Scrive la Guardia di Finanza: attività mai eseguite nei termini e nelle necessità descritte nel contratto. Zecchetto però è marito di Piera Rudi, sarà un caso, 64 anni, ex sindaco PD di Locate. E il compenso annuale per mansioni di dirigente della Margherita, previsto dal giugno 2005 a maggio 2010, era pari a 36.000 euro, a cui si aggiunge una remunerazione di 12.000 euro annui come indennità di posizione e un'integrazione di 2.500 euro dal luglio 2008. Ma ce n'è anche per la figlia Chiara, ex consigliere comunale del PD a Locate, che ha un incarico per analisi su problematiche ambientali, 4.000 euro. E poi ci sono casi veramente, noi parliamo della creatività e del genio italico, ma qui c'è qualche esempio. Il gruppo dell'Italia dei Valori al Pirellone ha dato numerosi incarichi di ricerca al titolare, fino al 2005, di una ditta di riparazioni meccaniche di autoveicoli. Allora, io capisco tutto, ma c'è Paolo Bricco che non riesce neanche a stare detto qua, ma cioè, come si fa a dare a un meccanico, no, degli incarichi di ricerca? Ricerca di che? Dei microspeed? Di ricerca di che cosa? O ti sei fatto riparare la macchina? Dubbio atroce che ci dilania da questa mattina. Il PDL Gianluca Rinaldini ha scelto per una consulenza da 5.000 euro il titolare di una ditta di tinteggiatura e posa di vetri. Che pure qua io posso capire tutto, ma che consulenza ti dà uno che tinteggia e posa i vetri? Il gruppo PDL ha assunto per 6 mesi il rappresentante legale di un'azienda di installazione di impianti sanitari. La battuta viene anche facile. Allora, certo, insomma, forse la consulenza di uno che installa impianti sanitari, con quello che stiamo raccontando della gestione della Regione Lombardia, era quanto mai appropriata. Mi fermo qua perché ne sarei anche un po' stufo delle querele. L'ex assessore alla casa, Mario Scotti, ha assegnato 3 consulenze su problematiche dell'edilizia pubblica a un soggetto che si occupa di riparazione e sostituzione di pneumatici. Ma come cavolo si fa? Ma vi rendete conto? Cioè, uno fa il gommista e giustamente gli danno le problematiche dell'edilizia pubblica. 3 incarichi a una donna che ha una ditta di paste, couscous e farinacei simili. Io vorrei sapere da Mario Scotti che incarico puoi dare a una signora che ha una ditta di paste, couscous e farinacei simili, se non un incarico di carattere culinario. guarda, l'unico che farei passare, secondo me è sbagliato, ripeto, che venga, che entri nell'inchiesta della Guardia di Finanza, è la consulenza all'azienda che installa impianti sanitari, perché ce n'era di materia prima lì. Allora, la buona notizia, poi chiudiamo: la Regione Lazio ha tagliato del 79% i rimborsi, i costi dei gruppi consiliari. Il famoso fantasma di Fiorito, Batman, ve lo ricordate, no? Quello che quando nevicava si prendeva il SUV. Addio ostriche, champagne, fin troppo facile. Il Consiglio Regionale del Lazio, nella gestione attuale, non nella gestione Polverini, ha praticamente nel 2012, che è l'anno dello scandalo del Batman di Anagni, i gruppi avevano un costo di 18 milioni di euro. Nel 2014 è scesa a 3,7 milioni di euro. Pensate che due anni fa venivano stanziati 11 milioni di euro per il funzionamento dei gruppi, 1 milione e 700 di spese per il personale e 5 milioni per le assunzioni. Nell'era Zingaretti, ora non me ne frega nulla se Zingaretti del PD e la Polverini no. Io vorrei ancora capire perché, con massimo rispetto, l'ex presidente della Regione Lazio, vedo che va anche ai talk show di nuovo, parla di politica, ma insomma, che risponda di una gestione di cui non ha una colpa diretta, ma era lei il presidente della Regione. Allora, due anni fa 11 milioni di euro, adesso sostanzialmente 5 milioni di euro. E tra l'altro la spending review ha tagliato tutto, praticamente per il funzionamento dei gruppi consigliari come costo si è ridotto del 79%, e quindi questa è una buona notizia e va data, anche perché sono stati promossi tutti i bilanci pubblicati online, e a nostro avviso anche questo va bene. Meteo, pubblicità e poi parliamo dell'acciaio, anche se la Regione Campania una chicca gliela devo dare, perché è riuscita a premiare i dirigenti nonostante la difficoltà a capire gli obiettivi per cui vengono premiati. Comunque, dopo il meteo. Quello che vi stiamo presentando è un giallo, invitiamo tutti gli ascoltatori a partecipare, a scoprire la cosa mancante, perché siamo molto preoccupati per quello che sta capitando alla Regione Campania. Allora, ci sono 200 dirigenti, e vabbè, che costano la modica cifra di quasi 30 milioni di euro, ok? Questo è il costo di 29 milioni per essere precisi. Poi la Regione fa sapere che, anzi, per essere precisi sono 29.240.000 euro. Fa sapere che la cifra è comprensiva di tutto. Dov'è il giallo? Dov'è il giallo? E scateniamo i nostri detective. Allora, i dirigenti hanno nella Regione Campania uno stipendio che è così composto. C'è una retribuzione, diciamo, fissa, si chiama retribuzione di posizione, che varia a seconda dell'incarico e dà un compenso netto di 3-4 mila euro al mese. Poi però bisogna aggiungere la retribuzione di risultato, il bonus per l'obiettivo raggiunto, che è calcolato in base alla valutazione della performance, che può concludersi anche con esito negativo. Certo, cavolo, quando viene esaminato puoi passare o essere bocciato. In realtà nel 2012 il 95% dei dirigenti ha ricevuto premi, solo 12, io vorrei chiamarti 12 apostoli per capire come mai non hanno ricevuto i premi, con bonus medi intorno ai 40.000 euro e per un totale di 93.000, in alcuni casi anche 93.000 euro, ha speso la Regione solo di bonus ai dirigenti 9 milioni di euro. Faccio notare che in Emilia Romagna la retribuzione di risultato non ha mai superato nel 2013 i 20.000 euro, e anche in Veneto, quando viene data la retribuzione, il bonus al dirigente non va oltre i 10.000 euro. In Campania invece va dai 40 ai 93.000 euro, e capirai, no? Essendo la Regione una delle migliori quanto amministrazione. Ma il giallo non è sul perché abbiano ottenuto, non è tanto il giallo sulla cifra che hanno ottenuto i dirigenti della Regione Campania, il giallo è su qual è l'obiettivo raggiunto. Invito Tom Ponzi e tutti i suoi seguaci a scatenarsi, perché se uno va sul portale internet della Regione Campania, nell'apposita sezione trasparenza, sono elencati i dirigenti in servizio con il curricula e lo stipendio percepito, ma non gli obiettivi di base a cui, in base ai quali vengono assegnati i bonus. Quindi il bonus c'è, l'obiettivo no. Mistero. adesso, però basta, parliamo della gente che lavora veramente e quindi occupiamoci dell'acciaio italiano. Gente, ha detto che lavora veramente e lavora in condizioni di difficoltà e ci mancherebbe. Allora, qui ci sono tre fronti aperti. Uno che dicevo forse si sta chiudendo, dovrebbe essere chiuso, che era quello degli stabilimenti di Piombino della Lucchini. Stabilimento storico, dopo varie vicissitudini, viene ceduto nel 2005 ai russi di Severstal. Nel 2010 i russi provano a vendere lo stabilimento, non trovano acquirenti. Chiedono nel 2012 l'amministrazione straordinaria, nel 2013 la dichiarazione di fallimento. Poi c'è la vicenda Ilva e la vicenda Terni. Paolo Bricco, la firma del Sole 24 Ore quando si parla di acciaio, buonasera. Buonasera a te, buonasera a tutti i radioascoltatori. Allora, oggi Renzi è intervenuto sulla vicenda Cevital, nel senso che in Algeria Cevital è il primo gruppo privato algerino, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha dato via libera, se ho ben visto, all'operazione. La Lucchini di Piombino va agli algerini per farne che cosa? Visto che hanno garantito 400 milioni di euro di investimento, 1800 assunzioni subito e poi il reintegro a regime di tutti i dipendenti dello stabilimento. Per fare un gruppo integrato algerino-italiano loro avevano bisogno di una sponda a nord del Mediterraneo, sono un gruppo appunto solido, naturalmente sono anche un competitor, per cui ad esempio in alcune parti d'Italia, in particolare nel Bresciano, alcuni imprenditori siderurgici si sono anche preoccupati per l'arrivo di un concorrente di questo genere. Lo dirà però il mercato che cosa succederà nei prossimi mesi sul mercato italiano e anche sul mercato europeo. Di certo il presidio di Livorno, di Piombino, l'area industriale è salvata, verranno fatti investimenti e in qualche maniera la Toscana ha risolto un grave problema e anche il paese. E anche il paese. Ecco, è serio l'investimento? Sì, l'investimento appare serio, assolutamente non siamo di fronte a magliari come quelli che si erano invece di origini tunisine e libanesi si erano affacciati qualche mese fa con personaggi curiosi. Questo è un gruppo strutturato e non soltanto, e lo possiamo dire non soltanto perché anche il Premier, che finalmente, dico finalmente, sottolineo finalmente, ha avvocato a sé il dossier siderurgia, ha dato l'imprinting. Dico finalmente perché in qualche maniera in un governo le cui misure di politica economica sono fortemente segnate dall'imprinting di Matteo Renzi rispetto anche agli altri ministri, che sono persone degnissime, di qualità, ma come dire hanno una cifra politica evidentemente inferiore rispetto a quella del titolare di Palazzo Chigi. Nel momento in cui il Presidente del Consiglio sceglie di occuparsi in prima persona di acciaio, non sappiamo bene che cosa succederà, ma di certo c'è un'altra forza nel costruire le soluzioni. Senza nulla togliere alla Guidi. Però ho capito il tuo ragionamento e devo dire che lo condivido, nel senso che il tema dell'acciaio italiano, che come per una specie di in qualche modo coincidenza astrologica si ritrova tutto oggi, perché adesso parliamo dell'Ilva e poi parliamo anche dell'acciaio speciale Terni, ha una linea di confine, di demarcazione tra restare in vita o smettere di produrre acciaio, lo dico in maniera molto tranquilla. È chiaro che è un tema talmente grosso da essere avvocato dal Presidente del Consiglio. Quindi si può essere d'accordo o meno con le soluzioni che egli prospetta. Evidentemente, ad esempio, in questi giorni ha fatto molto rumore nella business community e in generale anche nella politica italiana la parola nazionalizzazione che lui ha tirato fuori in merito all'Ilva. Però, in ogni caso, diciamo, il primato della politica in questa maniera, in questo momento, viene ristabilito ed è essenziale per determinare linee di politica industriale. Non c'è nulla di strano, in Francia lo fanno da sempre e non mi sembra che la Francia sia in ginocchio. Poi noi non sposiamo il protezionismo francese, non l'abbiamo mai sposato, loro sono eccessivi. Però quando c'è un dossier di politica industriale pesante, non perché gli altri contino meno, ma perché stiamo parlando dell'acciaio italiano nel suo complesso e siamo il secondo produttore d'acciaio in Europa, beh, è giusto che se ne occupi la massima carica politica, che in un governo democratico di solito è il Presidente del Consiglio o, in quelle cariche presidenziali, Presidenza della Repubblica. Dopo il traffico vorrei capire invece quanto è seria l'offerta degli indiani sull'Ilva di Taranto, perché a me qualcuno dice, attenzione, non sei tu, quindi uccellini di altro genere, attenzione, gli indiani di ArcelorMittal, che sono il colosso mondiale dell'acciaio, non hanno avuto nessun problema a chiudere il loro stabilimento in Francia, con tutto quello che sappiamo è la resistenza e lo sciovinismo francese. Beh, figurati se avrebbe un domani un problema a chiudere l'Ilva di Taranto. Dopo il traffico, la risposta. Dice 7:50 minuti. Dunque, Paolo Bricco. Fronte invece Ilva di Taranto, il commissario straordinario Piero Gnudi, ce l'ha raccontato anche 3 mesi fa, sta cercando, e aveva ricevuto un'unica offerta seria sul tavolo, un compratore per il primo stabilimento siderurgico europeo come produzione, perché non parliamo di robetta, spesso l'Italia ha un problema di piccola impresa, qui parliamo di grossa impresa. Allora, ci sono solo gli indiani e il timore che questi uccellini mi paventavano, è un timore così reale oppure sono solo cattive malelingue? I franco-indiani appunto di ArcelorMittal sono interlocutori tostissimi, non hanno avuto problemi a piegare, appunto come ricordavi prima della pausa traffico tu, il governo francese in merito alla chiusura dello stabilimento del plant di Florence, e quindi, come dire, evidentemente due pesi due misure, quindi sono interlocutori tosti, hanno comunque depositato insieme a Marcegaglia una lettera dei intenti l'altra settimana. Quanto viene valutato lo stabilimento Ilva? Il punto è proprio questo, nel senso che non compare in questa seconda lettera, la prima era stata inviata alcuni mesi fa, una vera cifra. Il tema è proprio questo. Ce la vogliono gratis? Il problema è che innanzitutto ci sono, pongono delle questioni di separazione tra il vecchio e il nuovo dal punto di vista, diciamo, della loro protezione giuridica nei confronti delle questioni ambientali molto forte, e poi alla fine della fiera anche l'assenza di un numero ha fatto dire a molti osservatori... Come gli obiettivi di dirigente della Regione Campania mancano? Cioè, senso... Il problema, il punto vero è che alla fine della fiera il conteggio, il valore attribuito, dati i lavori da fare, le molte centinaia di milioni di euro da impiegare per bonificare, e data la situazione devastante della finanza d'impresa di oggi dell'Ilva, che perde ancora fra i 25 i 30 e i 35 milioni di euro al mese, la cifra non c'è, perché secondo alcuni si avvicinerebbe molto allo zero. Ok, però scusami, va bene, mettiamo che gli indiani dicano, vabbè, guardate, con i lavori che ci tocca fare per bonificare la prendiamo zero, perché in realtà mettiamo centinaia di milioni di altro genere, va bene, questo succede in natura. Quello che voglio capire è, poi producono l'acciaio o no? Perché l'Ilva sta producendo 5 milioni e 300 mila tonnellate l'anno scorso, ha un potenziale, come dicevo, è il più grande impianto europeo, da 8 milioni. La vogliono rilanciare oppure vogliono levarsi un concorrente? Perché poi il sospetto viene. Beh, ad alcuni il sospetto è venuto. È chiaro che anche la tergiversazione, il prolungamento dei tempi che c'è stato in tutti questi mesi, il primo incontro tra ArcelorMittal e il governo risale al 28 maggio, ha alimentato questi soliti sospetti, per citare un grande film, ecco, che, come dire, che non è finito bene, ma anche legittimi. Dall'altra parte, evidentemente, proprio perché il governo ha subodorato un'ipotesi di questo genere e comunque ha cercato di avere più tavoli su cui giocare, in qualche maniera il governo ha anche molto spinto il cavaliere Arvedi di Cremona, anche lui, a presentare una lettera, diciamo, di interessamento, e facendo anche l'ipotesi di un matrimonio tra Arvedi stesso e la Cassa Depositi e Prestiti. Infatti abbiamo visto ieri Gono Tempini fare la dichiarazione, che detto, però, come, molto prudenti, perché comunque gestisce il risparmio postale degli italiani, per delle questo. Nonnine, dei nonnini, quindi, ma non solo i nonnini, anche i ragazzi, o cioè sempre sta nonnina che, capito, non sa usare il banco, ma c'è miliardi nelle poste, sono rotto le palle sta nonnina. Gestisce il risparmio postale degli italiani, tra cui anche le nonnine, ci mancherebbe, non è che ce l'ho con le nonnine, è che sembra sempre che la nonnina sia un po' rinco, invece le nonnine le vediamo belle arzille. Allora, Vicenza invece ha ST, quindi io ho capito benissimo dove tu vuoi arrivare a dire, l'unica alternativa come offerta è Arvedi con lo Stato italiano, da lì l'ipotesi di nazionalizzazione. Sì. Devo dire la verità, la cosa più preferibile sarebbe un bel investimento indiano, serio, però che punti a sviluppare l'impianto, così non mettiamo i soldi delle nonnine, dei nipotini dentro l'IVA di Taranto. Andare però a vendere agli indiani per poi fargli, perché poi gli indiani chiudono e abbiano un concorrente in meno, allora a sto punto forse è meglio riconsiderare l'ipotesi anche di tenere il primo impianto produttivo siderurgico in Europa. Ultima domanda che ho per te, rapidissima, perché siamo quasi in chiusura, ho Gianni Trovati che deve parlarci dell'evasione fiscale, non sua ma quella della Corte dei Conti. La AST di Terni. Beh, sulla AST di Terni probabilmente oggi si chiude, l'auspicio è anche quello. Si chiude la trattativa. La trattativa, sì, sì, sì, per carità. Si chiude la trattativa. Ecco, in questo caso abbiamo visto come la pressione politica del governo serve. Esercitata in maniera... La politica industriale, ecco, quando è fatta bene. Tanto che alla fine perfino i durissimi ostici tedeschi alla fine hanno ridotto grandemente il numero di esuberi, hanno mantenuto non una promessa ma un progetto serio di investimenti, e quindi questa sera forse si riesce a portare a casa il risultato finale di un accordo. Che sarebbe un'altra buona notizia, sembra Piombino, per l'acciaio italiano. Grazie Paolo Bricco. Dopo GR24 invece Gianni Trovati sulla Corte dei Conti, che un po' scopre l'acqua calda, un po' no. 349-238-6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia su Facebook. Faremo anche la borsa. Otto e otto minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora Gianni Trovati, buonasera. Buonasera a voi. La voce del Sole 24 Ore per il fisco, una delle voci, ci mancherebbe. Tra l'altro il Sole 24 Ore domani esce con un numero speciale, tra l'altro, dedicato a Tarsu e Tasi, giusto? Sì, e IMU e soprattutto IMU. Perché c'è questo nuovo decreto che finalmente è spuntato, che fa pagare retroattivamente per tutto il 2014 l'IMU ai terreni, a molti terreni che prima erano considerati montani, quindi esenti, quindi c'è un gran caos, tutte le regole, e che cosa bisogna fare per affrontare questa ennesima bizza fiscale. Allora, veniamo a un tuo commento invece sulla la relazione di oggi della Corte dei Conti sugli effetti dell'azione di controllo fiscale in termini di stabilizzazione. Cioè, da un lato mi sembra che ci sia, mi sono permesso di dire, una leggera scoperta dell'acqua calda, nel senso che si dice che la correttezza fiscale sembra più affidata alla lealtà del sindaco che non agli strumenti, che i troppi condoni rendono le persone corrette, danno la sensazione alle persone oneste e corrette di essere autolesioniste, che c'è una grave sperequazione nel gettito, sostanzialmente IRPEF, tra lavoro dipendente e autonomi. La Corte dei Conti fa notare che l'80% del gettito totale derivante da adempimento spontaneo e IRPEF dichiarata è di lavoratori dipendenti e di pensionati, e su 200 miliardi di entrate ha aggredito il 35% dell'evasione. E poi una nota di carattere quasi politico: negli ultimi 40 anni la lotta all'evasione, la normativa fiscale, è stata oggetto di scontro politico, e quindi le normative che si sono sviluppate sono spesso contraddittorie, mal coordinate e mai inquadrate in una strategia di lungo periodo di contrasto all'evasione fiscale, anche perché denotano questi andamenti contraddittori l'esistenza di storiche divisioni politiche e sociali su un tema, quello del contrasto alla lotta all'evasione, che per sua natura rilevanza dovrebbe costituire elemento di piena condivisione e concordanza di obiettivi. Gianni. Sì, fin qui appunto sono messi in fila un po' di cose che sapevamo già. Il punto secondo me più interessante è il seguente. La relazione della Corte dei Conti mette nel mirino la cosiddetta tax compliance, cioè cosa dice il fisco? Basta con il fisco repressivo, super sanzioni eccetera, aiutiamo l'adempimento spontaneo da parte del contribuente stendendogli un po' i tappeti, no? Quindi diminuzione delle sanzioni, accertamento con adesione, bla bla bla. Questa qui è la strategia del fisco da parecchio parecchi anni, poi declinata in varia misura. Risultati secondo la Corte dei Conti che sostanzialmente non c'è nessuna capacità repressiva del fisco e nessuna capacità deterrente all'evasione. Siccome i controlli sono pochi, perché le forze dell'amministrazione finanziaria sono quelle che sono, per un piccolo soggetto si calcola in media, c'è cioè nella relazione un controllo ogni 33 anni, è conveniente, diciamo, non adempiere all'obbligo tributario, cioè non pagare le tasse, aspettando un improbabile controllo, tanto poi anche quando arriva ci sono degli strumenti per abbattere notevolmente le sanzioni, gli interessi e così via. Risultato, chi paga lo paga per carità di... paga le tasse per carità di patria oppure perché è obbligato da un sistema tipo il prelievo alla fonte, e moltissimi altri la fanno franca. Il punto, ripeto, non è che, che l'evasione in Italia è tanta, questo lo sapevamo moltissimo, ma che secondo la Corte dei Conti la strategia di aiutare l'adempimento spontaneo da parte del contribuente si è finora sostanziata in un fallimento. E quindi sembrerebbe quasi che indirettamente la Corte dei Conti chieda strategie più dure e meno... Prego. Strategie più dure, sicuramente, maggiore repressione, maggior utilizzo delle banche dati fiscali. Anche qui è un tema un po' eterno, per sì, esempio infatti. Nell'ultima legge di stabilità c'è questa ipotesi di accesso più ampio ai conti correnti, ai rapporti finanziari e così via. Vedremo che come sarà declinata, perché poi ci sono i problemi di privacy. Ma che fine ha fatto tra l'altro appunto l'incrocio, abbiamo fatto intere puntate tra il passaggio da redditometro a spesometro, mettendo in guardia, e poi? Si scopre molto spesso che queste banche dati da incrociare non parlano fra loro, per cui l'incrocio è pericoloso, diciamo così. Non permettono. Si è creato negli anni una proliferazione di banche dati, spesso in maniera autonoma l'una dall'altra, in modo tale che appunto poi per la banca dati la utilizzi se puoi incrociare un dato con un altro, e se questi incroci spesso non sono possibili, appunto la banca dati si rivela inutile. Poi il redditometro è stato un gran battage dell'ultima parte dell'era Befera nell'Agenzia delle Entrate, finora non si è tradotto sostanzialmente in nulla. Niente. E anche lo spesometro mi stai facendo capire che... Lo spesometro un po' di più, diciamo, ha coperto in parte i buchi, che lo spesometro è quell'obbligo di comunicazione di tutti gli acquisti, diciamo, sopra da 3.600 euro, ha coperto un po' i buchi dell'abolizione dell'elenco del vecchio elenco clienti fornitori, sì. Perché sostanzialmente se il fisco non ha immediata visione delle transazioni IVA, l'IVA è l'imposta più evasa. Grazie a Gianni Trovati per questa botta di allegria e di ottimismo, ma quando si parla di fisco in Italia è difficile che vada diversamente. Adesso la borsa. Allora, come dicevamo in apertura, il caso di borsa di oggi si chiama Saipem, -10,84%, ne parleremo fra un attimo. Male però anche tutto il lusso: Ferragamo -4,40%, Tod's -3%, Wood Duty Free -2,80%, Hux -1%, Moncler -0,80%. Bene, CNH Industrial +3,70%, Fiat Chrysler +2,90%, Popolare Emilia Romagna +2,80%, Prysmian pure, Ubibanca +2, Finmeccanica +1,80, Luxottica +1,20, come la Pop Milano. L'1,1 lo guadagnano sia Unicredit che Unipolsai, l'1% Mediaset, lo 0,90 Terna e Tenaris. +0,70 fa anche l'Eni. Allora, come spesso facciamo, il commento lo affidiamo oggi a un gestore, perché li abbiamo ciclicamente nostri ospiti, Filippo Diodovic, strategist per IG Market Italia. Buonasera. Buonasera. Mi dia, al di là della vicenda Saipem, di cui poi parleremo, un commento complessivo alla seduta. Sì, allora, oggi è stata una seduta abbastanza interlocutoria, con Milano che ha virato più volte sia in positivo che in negativo. Diciamo che molti operatori sono in attesa della riunione della Banca Centrale Europea di giovedì, che sarà fondamentale per capire come posizionarsi sul mercato. C'è molta incertezza sulle decisioni della BCE, visto che Il mercato si attende che il governatore della BCE, Mario Draghi, sia molto propositivo in termini di nuove misure non convenzionali, anche con il possibile acquisto di titoli governativi, e questo potrebbe sicuramente portare, diciamo, positività sul mercato azionario. E quindi diciamo che al momento il mercato sta un po' temporeggiando, e lo vediamo anche dal rendimento dei titoli di Stato, che comunque rimangono molto bassi. Oggi comunque il decennale si manteneva vicino al 2%. Sì, sì. Quindi ecco, diciamo, c'è grande attesa, ecco, proprio per la riunione di giovedì. Sì. E anche domani immaginiamo una seduta analoga. Sul lusso c'è qualche motivo? Sul lusso diciamo che il lusso sta risentendo molto della crisi russa. Sì, visto che i russi sicuramente erano dei grandi acquirenti di titoli del comparto, e la Russia in questo momento è in un angolo, visto il crollo dei prezzi petroliferi e la svalutazione. No, ma poi tra l'altro è di oggi la notizia che invece che fare più 1,2% il PIL russo l'anno prossimo, ultima stima diffusa dai vertici russi, farà meno 0,8, insomma, la differenza tra crescita e recessione. E il ragionamento che si fa sul lusso, beh, lei ha ragione, tra i più grandi c'è anche un'espressione in francese per indicare appunto i miliardari e il loro amore per il lusso, no? Bling bling, se non ricordo male. Bieletti Industrie più 13,55, Agronomia più 8,70, BS più 4,90 e Zucchi più 4,20, i migliori titoli. Saipem appunto il peggiore in assoluto, poi Vita Società Editoriale meno 7, Invest meno 6,90, Visibilia Editore meno 6,70, appunto Ferragamo di cui parlavamo. Grazie a Filippo Diodovic. Il traffico, e poi appunto parliamo di Saipem e di Eni, ma soprattutto di Saipem, della notizia più importante dal punto di vista finanziario, ma forse anche economico, della giornata. Mi riferisco al fatto che Putin ha annunciato che per ora, almeno per ora, è tutto sospeso, si blocca il progetto del super gasdotto South Stream, che vedeva l'Eni partecipare alla società col 20% e la Saipem avere una commessa per posare i tubi nel Mar Nero da 2 miliardi di euro. Allora, questa è la notizia, quindi il blocco del progetto South Stream. Va chiarita una cosa: poco fa ha parlato il premier Renzi, ha detto dall'Algeria il progetto South Stream era fortemente contestato in Europa e condizionato dalla procedura di infrazione dell'Unione Europea, un progetto che noi non consideriamo fondamentale per l'Italia, quindi la decisione di bloccarlo non è un elemento che ci preoccupa. Anche sulla stessa falsa riga anche il numero uno di Snam, Carlo Malacarne, che ha detto: attenzione, South Stream era un investimento per le infrastrutture, non di diversificazione delle fonti di approvvigionamento. Era sempre gas russo e che transitava da un altro gasdotto. E non è mai stato considerato strategico. Perché? Perché South Stream, è difficile in radio mostrare una cartina, però il South Stream partiva dalla provincia russa di Anapa, attraversava il Mar Nero e sbucava praticamente in Bulgaria e poi faceva Serbia, Croazia per arrivare a Trieste. Era un gasdotto alternativo, non come approvvigionamento, ha ragione Malacarne, cioè sempre gas russo era, ma invece che passare dall'Ucraina passava, girava l'Ucraina, e quindi dal punto di vista geopolitico permetteva alla Russia di dare gas all'Europa anche di fronte a un'eventuale crisi ucraina. Altra cosa è il gasdotto TAP, che invece è tutta un'altra storia. Perché? Perché il TAP porta gas, o porterà gas nuovo, perché andrà a prenderlo dalle zone del Caucaso, del Mar Caspio, in Azerbaigian e potenzialmente anche dal Medio Oriente, e infatti dalla Georgia attraverserà tutta la Turchia, passerà per lo stretto del Bosforo e poi sbucherà in Albania e in Puglia a San Foca. Ed è tutto un altro progetto. Vorrei sapere però da uno dei massimi esperti di approvvigionamento energetico in Italia, il professor Carlo Scarpa, che insegna economia e politica all'Università di Brescia. Buonasera professore. Buonasera a tutti. Come si spiega che un progetto molto contestato, perché costava tantissimo, 50 miliardi, ne facevano parte Eni col 20%, poi Gazprom col 50%, la Saipem ha avuto un appalto da 2 miliardi, sembrano tutti contenti, il premier Renzi l'abbiamo appena sentito, l'ENI, il SNAM dice beh non era così strategico, il vice ministro De Vincenti ha detto per noi solo TAP è strategico. Ma sono tutti contenti che Putin ha bloccato il South Stream, tranne la borsa che ha bastonato Saipem. Prego. Beh, sicuramente Eni non è contenta di tutto questo. Allora, c'è da dire una cosa. Ora in Europa, in particolare in Italia, di gas ce n'è molto e data il momento attuale di domanda probabilmente ce n'è perfino troppo. Per cui costruire un nuovo gasdotto sì, è utile in prospettiva futura, però nell'immediato qualche dubbio lo lascia. Nell'immediato, tra i prossimi 3-5 anni, qualche dubbio lo lascia. Oltretutto lì in quella parte tra Europa e Asia si stavano sviluppando tre progetti concorrenti: il South Stream, quello di Putin, quello di oggi, il Nabucco e il TAP. Tutti a dire non sono in alternativa l'uno all'altro, ma è evidente che se quindi già di gas ne abbiamo tanto, questi gasdotti costano miliardi di euro, è evidente che costruirne tre non aveva senso. Il Nabucco è sostanzialmente morto, quanto si capisce, restavano South Stream e TAP con come dire, due cordate diverse, ciascuno vuole costruirsi proprio. Sì, anche perché nel TAP, che è vero che va a prendere gas nuovo, cioè non sempre russo, però gli italiani non sono presenti perché c'è la norvegese Statoil, l'inglese BP, British Petroleum e poi la francese Total, la svizzera Axe Holding, la azera Socar, ma noi non ci siamo nel TAP. Sì, non ci siamo, però comunque ci sono dei contratti interessanti, certo, per cui una serie di cose di benefici comunque potrebbero arrivare. E lì ne possono arrivare sotto il profilo della diversificazione. Il problema qual è? Allora, questo sarebbe il gas che viene dall'Azerbaigian, quella zona lì, che però ha dei problemi anche quello. Tra Azerbaigian e Armenia c'è una guerra latente, ogni tanto si tirano giù degli elicotteri a vicenda, insomma, ci sono dei problemi di confine tutt'altro che banali, per cui è vero che lì andiamo a prendere gas diverso da quello russo, però andiamo a comunque infilarci in problemi di carattere territoriale, certo, e non banali. Per cui. Però io da quello che ho capito, ma mi dica, mi sbaglio. Mentre Saipem, avendo avuto una commessa a 2 miliardi, che però da quello che so io è tutelata perché in caso di rottura del contratto hai tutte le clausole di tutela, l'ENI si era trovata a partecipare con il 20% in un progetto che continuava a lievitare di costi, quindi anche se non può dirlo ufficialmente magari è contenta o no? Sì, è vero, lievitavano i costi, poi una buona parte di questi costi sarebbero finiti in tasca Saipem, quindi non so esattamente quale sia la contabilità interna di ENI, lì è difficile. Il problema è che è comunque un progetto che importava tanto gas e una volta arrivato in Italia o in Europa questo gas bisognava venderlo. È verissimo che l'ENI è l'unica a poter posare tubi in fondo al Mar Nero, perché questo è il brevetto dell'ENI e della Saipem, che è all'avanguardia in questo lo dico anche agli ascoltatori. Così come molti mi chiedono di parlare della chiusura dello stabilimento della Saipem a Corte Maggiore. Sì, adesso parleremo anche di quello. In questo caso però oggi il tema è legato soprattutto alla decisione di Putin. E quindi quale tipo di ritorsione è, mi scusi Scarpa, perché Putin delle volte a me sembra come il marito cornuto che si taglia, diciamo, la parte... Assolutamente d'accordo. Sì. Infatti il problema è capire qual è la credibilità di questa minaccia, perché da un lato uno potrebbe dire sì, è vero, i russi hanno anche altre alternative, in particolare potrebbero cominciare a vendere il gas ai cinesi, però far arrivare il gas in Cina non è una cosa così, così ovvia. I cinesi anche loro non vogliono legarsi mani e piedi alla Russia, per cui anche loro le cautele le vogliono prendere. Tra l'altro i cinesi sarebbero molto interessati in realtà ad altri gas del Mar Caspio, quello azero e anche quello di altri paesi, per cui non è chiaro quale sia il potere contrattuale di Putin. Il problema sostanzialmente qual è, secondo me, è che questo contrasto Russia-Unione Europea è una cosa che non ha senso dal punto di vista economico, è nell'interesse di entrambi cooperare e bisogna trovare urgentemente un punto di caduta, certo, una via d'uscita dalla crisi ucraina. Sì, devo dire che anche l'Europa ha dei danni, e ce l'ha anche l'Italia sull'export della Russia. Prima commentavamo i titoli del lusso, ma devo dire che i danni più grossi li sta avendo la Russia, perché se uno va a vedere il rublo, la recessione che in cui entrerà l'anno prossimo invece di crescita economica, a me sembra che Putin si sia messo un po' in un cul-de-sac, e come si sa, per uscire da un cul-de-sac ci vuole qualcos'altro. Grazie anche al professor Carlo Scarpa, e da Sebastiano Berisoni è veramente tutto, ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Intanto l'auguro di una buona serata.